Trento Luca, ci sei? Attento, Luca Luca, sei in ascolto, cambio. Luca, ci sei? Gabba gabba. Oh, dimmi! Riccardi! Vabbè, Attari! Ciao, Luca! E tu? Come la stai meglio lungati oggi, va? Ti stavo chiamando prima, ma non rispondevi. Sto a luce, ma anch'io non ce l'ho. Che va, che va. Io ho portato il cane. Riccardino era a patata. Io l'ho portato stasera alla veterinaria a fargli fare il coso, la visita, 50 euro mi costa. Però a quanto pare quello lì è un tumore vaginale. Mi ha detto, adesso vediamo come si, cosa si presenta, se no mi ha detto di farla sopprimere. E se non c'è niente da fare per soffrire, cosa la fai sopprimere e via? Una lesione. Però oggi sta bene, tranquilla. Io e Luna. No, ieri proprio ieri nulla. Adesso stamattina se tu sono il campanello lei abbaia, capito? Confronta ieri. Adesso vediamo la tarità. 50 euro me li gioco, ma poi alla fine non vado oltre perché tanto non ne vale la pena. Poi vado a spendere i soldi o non ne vale la pena. Poi il cane ha i suoi anni. Poi vediamo cosa mi dice, se dura qualche anno, boh, magari pagagliela poco a poco, poi adesso. Vedi un po'. Ma Riccardino ha chiamato poco fa. Perché era pattata con la mamma? Era pattata con la mamma. E deve essere aiutare la mamma e doveva fare roba dei vitelli lì. Positivo Gavarrocci. A me stamane arrivo con una passeggiata, faremo una passeggiata. E ci sentiamo più tardi, là. Già rimango in ascolto. Casomai stasera, là. Va bene, ciao. Ciao, ciao.